Il branco di lupi. In un giorno solo papà e il signor Edwards costruirono la stalla per Pet e Patty. Ci misero persino sopra il tetto, lavorando così tanto che mamma dovette tenere la cena in caldo per loro. Non c'erano porte, ma al bagliore della luna papà piantò due grossi pali nel terreno, uno da ciascun lato della porta. Mise Pet e Patty nella stalla, poi infilò dei tronchi sottili uno sopra l'altro davanti all'ingresso. I pali li tenevano su formando un solido muro. Che i lupi ululino pure adesso, disse papà. Questa notte dormirò. Al mattino, mentre toglieva i tronchi infilati dietro i pali, Laura rimase stupefatta. Vicino a Pet c'era un piccolo puledro barcollante, dalle zampe sottili e dalle lunghe orecchie. Quando Laura corse verso di lui, la dolce Pet tirò indietro le orecchie e digrignò i denti. Stai indietro, Laura, disse papà. Su, Pet, sai bene che non faremo del male al tuo piccolo. Pet rispose con un leggero nitrito. Lasciò che papà accarezzasse il puledro, ma non voleva che Laura o Mary gli si avvicinassero. Persino quando lo guardavano attraverso le fessure nel muro della stalla, Pet faceva roteare gli occhi e mostrava loro i denti. Non avevano mai visto un puledro con le orecchie così lunghe. Papà disse che era un piccolo mulo. Ma Laura disse che somigliava a una lepre, così lo chiamarono Bunny, coniglietto. Quando Pet era legata al piolo, con Bunny che si guardava intorno nitrendo accanto a lei, Laura doveva sorvegliare la piccola Carrie con molta attenzione. Se qualcun altro che non fosse papà si avvicinava a Bunny, Pet nitriva rabbiosamente e gli si scagliava incontro per morderlo. Quella domenica, nel primo pomeriggio, papà andò a fare un giro nella prateria con Patty. C'era parecchia carne in casa, quindi non prese il fucile. Cavalcò tra l'erba alta lungo il bordo ripido del torrente. C'erano uccelli che gli giravano intorno per poi scendere nell'erba. Mentre cavalcava, papà guardava il fiume. Forse stava cercando dei cervi. Poi Patty partì a galoppo e lei e papà divennero sempre più piccoli. Poco dopo, nel punto in cui si trovavano, si vedeva solo l'erba ondeggiante. Nel tardo pomeriggio papà non era ancora tornato. Mamma rigirò le braci del fuoco, ci mise su dei rametti e cominciò a preparare la cena. Mary era in casa e si occupava della piccola. Laura chiese a mamma: Cos'ha Jack? Jack andava avanti e indietro nervosamente, arricciava il naso per via del vento e i peli gli si drizzavano sul collo, poi scendevano, poi si drizzavano nuovamente. Pet sbuffò rumorosamente, corse in tondo intorno al picchetto al quale era legata, poi si fermò e nitrì con un suono grave. Bunny le si avvicinò. Cosa c'è, Jack? Chiese mamma. Lui sollevò gli occhi, non potendo rispondere. Mamma si guardò intorno lungo tutto il cerchio di terra e cielo, ma non vide nulla di insolito. Non è niente, Laura, disse. Rigirò le braccia intorno alla caffettiera e alla padella con i piedini e sopra il fornetto. Il tetraone sfrigolava nella pentola e si cominciava a sentire il profumo dei tortini di mais, ma per tutto il tempo. Mamma continuò a guardare la prateria intorno. Jack camminava nervosamente, Pet non mangiava, aveva lo sguardo fisso verso nord-est dove era andato papà. Il puledro era accanto a lei. All'improvviso Patty comparve galoppando attraverso la prateria. Papà era quasi sdraiato sul suo collo. Superò la stalla prima che papà potesse fermarla. La fermò con tanta forza che si ritrovò quasi a sedere. Patty tremava, il suo mantello nero era striato di sudore e di schiuma. Papà saltò giù, anche lui aveva il fiatone. Cosa succede, Charles? Gli chiese mamma. Papà guardava al di là del ruscello, così anche mamma e Laura guardarono da quella parte, ma tutto ciò che vedevano era lo spazio sopra le loro terre, oltre il dirupo, la chioma di qualche albero e le lontane cime del promontorio sotto l'erba alta della prateria. Cosa c'è? Chiese di nuovo mamma. Perché cavalcavi in quel modo? Papà fece un respiro profondo. Temevo che i lupi arrivassero qui prima di me, ma vedo che state tutti bene. Lupi! Gridò lei. Quali lupi? Va tutto bene, Caroline, disse papà. Lascia che riprenda fiato. Quando ebbe ripreso fiato, disse: Non stavo cavalcando in nessun modo, stavo cercando di restare aggrappato a Patty. 50 lupi, Caroline, i lupi più grossi che io abbia mai visto, non ci tornerei nemmeno per tutto l'oro del mondo. Proprio in quel momento. Un'ombra si stese sopra la prateria perché il sole stava calando. Papà disse: Ti racconterò più tardi. Ceniamo in casa, disse mamma. Non ce n'è bisogno, disse lui. Jack ci avviserà con largo anticipo. Tolse Pet e il puledro dal picchetto, non li portò a bere al ruscello come faceva di solito, diede loro da bere nella tinozza di mamma, che era già piena per il bucato del mattino dopo. Strofinò i fianchi e le zampe sudate di Patty e la portò nella stalla con Pet e Bunny. La cena era pronta. Il fuoco formava un cerchio di luce nella notte. Laura e Mary stavano vicino al fuoco e tenevano con sé la piccola Carrie. Potevano sentire il buio intorno a loro e continuavano a guardarsi alle spalle verso il punto in cui il buio si mescolava con la luce del fuoco. Lì le ombre si muovevano come se fossero vive. Jack sedeva sulle zampe posteriori, vicino a Laura, drizzava le orecchie e ascoltava il buio. Di tanto in tanto si alzava e vi si immergeva. Camminava intorno al fuoco, poi tornava vicino a Laura con il pelo abbassato sul collo robusto e senza ringhiare. Gli si vedevano un po' i denti come i bulldog. Laura e Mary mangiarono i loro tortini di mais e le cosce di tetraone e ascoltarono papà raccontare a mamma dei lupi. Aveva trovato altri vicini. Alcuni coloni si stavano stabilendo lungo entrambe le rive del ruscello, a meno di 4 chilometri, in un avvallamento della grande prateria. Un uomo e sua moglie stavano costruendo una casa. Si chiamavano Scott e papà disse che erano simpatici. 10 chilometri più in là, due uomini vivevano in una casa. Avevano preso due fattorie e costruito una casa a metà tra l'una e l'altra. La branda di uno dei due era contro un muro della casa, quella dell'altro contro un altro muro, così ciascuno dormiva sulla propria terra, anche se erano nella stessa casa che misurava appena 2 metri e mezzo. Papà non aveva ancora detto nulla a proposito dei lupi. Laura sperava che lo facesse, ma sapeva che non doveva interromperlo mentre parlava. Disse che quei due uomini non sapevano che ci fossero altre persone nei paraggi, non avevano visto altro che indiani. Erano quindi felici di vedere papà e lui si era fermato più a lungo del previsto. Poi aveva ripreso il cammino e da una piccola altura nella prateria aveva visto un puntino bianco giù al ruscello. Pensava che fosse un carro coperto e infatti lo era. Quando lo raggiunse, trovò un uomo con sua moglie e 5 figli. Venivano dall'Iowa e si erano accampati lì sotto perché uno dei loro cavalli era malato. Il cavallo stava meglio ora, ma a causa della cattiva aria che c'era la notte vicino al ruscello, loro avevano la febbre malarica. L'uomo, sua moglie e i 3 figli più grandi stavano così male che non si reggevano in piedi. I bambini più piccoli, maschio e femmina, dell'età di Mary e Laura, si prendevano cura di loro. Papà aveva fatto il possibile per loro. Poi era tornato indietro e ne aveva parlato ai due uomini. Uno dei due era andato a prendere tutta la famiglia per portarla su nella grande prateria, dove l'aria buona li avrebbe aiutati a rimettersi in fretta. Tra una cosa e l'altra, papà era ripartito più tardi del previsto. Aveva preso una scorciatoia attraverso la prateria. Patty galoppava a grandi balzi quando all'improvviso dal nulla erano sbucati i lupi e in un attimo erano tutti intorno a loro. Era un grosso branco, disse papà. Una cinquantina di lupi, più grossi che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Devono essere quelli che chiamano i lupi dei bisonti. Il capobranco era una grande bestia grigia. Era alto quasi 1 metro, credimi. Avevo i capelli dritti in testa. Ed eri senza fucile, disse mamma. Ci ho pensato. Ma se anche l'avessi avuto, non mi sarebbe stato di nessuna utilità. Non puoi affrontare 50 lupi con un fucile. E Patty non poteva seminarli. E cosa hai fatto? Chiese mamma. Niente, rispose papà. Patty ha cercato di correre, non ho mai desiderato scappare come in quel momento, ma sapevo che se Patty si fosse messa a correre ci si sarebbero immediatamente scagliati addosso e avrebbero avuto la meglio, così l'ho fatta camminare. Santo cielo, Charles, disse mamma sottovoce. Sì. Non tornerei indietro per niente al mondo, Caroline. Non ho mai visto dei lupi così. Uno di loro camminava accanto a noi, all'altezza della staffa. Avrei potuto dargli un calcio nelle costole. Non mi hanno nemmeno guardato. Dovevano aver appena catturato una preda e mangiato a volontà. Ti dico, Caroline, i lupi erano tutto intorno a noi. Camminavamo in mezzo a loro, in pieno giorno, come se fosse un branco di cani che camminava insieme a un cavallo. Camminavano, saltavano, giocavano e si colpivano a vicenda come cani. Santo cielo, Charles! Disse di nuovo mamma. Il cuore di Laura batteva forte, guardava papà a bocca aperta e con gli occhi spalancati. Patty si agitava e si dibatteva, disse papà. Era spaventata e grondante di sudore. Anche io ero sudato, ma continuavo a tenerla al passo e continuavamo a camminare con i lupi. Hanno continuato a camminare con noi per 400-500 metri, forse anche di più. Quel bestione restava al mio fianco, vicino alla staffa, e non sembrava avere nessuna intenzione di andarsene. Poi siamo arrivati all'inizio di un sentiero che scendeva verso il ruscello. Il capobranco lo ha imboccato e il resto del branco lo ha seguito. Appena l'ultimo dei lupi ha imboccato a sua volta il sentiero, ho lasciato andare Patty e lei si è diretta subito verso casa, attraverso la prateria, e non avrebbe potuto correre più veloce nemmeno se l'avessi spronata con una frusta di pelle. Oh, ho avuto paura per tutto il tempo. Temevo che i lupi potessero venire da queste parti e più in fretta di me. Ero contento che tu avessi il fucile, Caroline, e contento che la casa fosse finita. Sapevo che avresti potuto tenere i lupi lontano da casa con il fucile, ma Pete e il puledro erano fuori. Non avresti dovuto preoccuparti, Charles, disse mamma. Avrei trovato il modo di salvare i cavalli. Ma non riuscivo a pensare in modo razionale in quel momento, disse papà. I lupi non vi avrebbero fatto nulla, comunque, se fossero stati affamati. Non sarei qui a... Attento a quello che dici, disse mamma. Non voleva che papà spaventasse Mary e Laura. Beh, tutto è bene quel che finisce bene, rispose papà, e quei lupi sono lontani da qui ora. Perché si sono comportati così? Chiese Laura. Non lo so, Laura, disse lui. Immagino che avessero appena mangiato a sazietà e che stessero andando al ruscello per dissetarsi. O forse stavano giocando nella prateria e non si interessavano a nient'altro che al loro gioco, come a volte fanno le bambine. Forse avevano visto che non avevo il fucile e non potevo far loro del male, o forse non avevano mai visto un uomo prima e non sapevano nemmeno che gli uomini possono far loro del male, così non hanno fatto caso a me. Pete e Patty camminavano instancabilmente nella stalla. Jack camminava intorno al fuoco, quando si fermava per annusare l'aria e ascoltare, i peli gli si drizzavano sul collo. A letto, bambine, disse mamma allegramente. Nemmeno la piccola Carrie dormiva ancora e mamma le portò tutte in casa. Disse a Mary e Laura di andare a dormire, mise la camicia da notte a Carrie e la coricò nel lettone. Poi andò fuori a lavare i piatti. Laura avrebbe voluto che papà e mamma fossero in casa. Sembravano così lontani là fuori. Mary e Laura fecero le brave e rimasero nel letto, ma Carrie si sedette a giocare da sola nel buio. Nell'oscurità il braccio di papà spuntò da dietro la coperta che copriva l'apertura della porta e prese il fucile. Fuori, vicino al fuoco, i piatti di stagno tintinnavano. Poi un coltello grattò la padella. Mamma e papà parlavano e Laura sentì l'odore del fumo del tabacco. La casa era sicura, ma non se il fucile di papà non era sopra la porta. E non c'era la porta, solo una coperta. Passò parecchio tempo prima che mamma sollevasse la coperta. La piccola Carrie era ormai addormentata. Mamma e papà entrarono silenziosamente e in silenzio si misero a letto. Jack dormiva davanti alla porta, ma il suo mento non era posato sulle zampe. Aveva la testa alzata e ascoltava. Mamma respirava silenziosamente. Papà respirava rumorosamente. Anche Mary si era addormentata. Ma Laura si sforzava di tenere gli occhi aperti per guardare Jack. Non riusciva a capire se avesse il pelo dritto. All'improvviso si ritrovò a sedere nel letto. Si era addormentata, il buio se n'era andato, la luce della luna entrava dall'apertura della finestra e strisce di luce attraversavano le fessure nel muro. La sagoma di papà si stagliava contro la luce della luna davanti alla finestra, aveva in mano il fucile. Laura sentì un lupo ululare e si allontanò intimorita dal muro. Il lupo era proprio là dietro. Spaventata rimase in silenzio. Oh! Aveva i brividi, non solo lungo la schiena, ma in tutto il corpo. Mary si tirò la coperta fin sopra la testa. Jack ringhiava e mostrava i denti alla coperta che copriva l'ingresso. Sta fermo, Jack, disse papà. Terribili ululati rimbombavano in tutta la casa. Laura si alzò dal letto. Avrebbe voluto andare da papà, ma sapeva che sarebbe stato meglio non disturbarlo in quel momento. Lui si voltò e la vide lì, in piedi, in camicia da notte. Vuoi vederli, Laura? Chiese sottovoce. Laura non riusciva a parlare, ma annuì e in punta di piedi gli si avvicinò. Lui appoggiò il fucile contro il muro e la sollevò perché potesse guardare fuori dalla finestra. I lupi erano lì e formavano un semicerchio al bagliore della luna. Seduti sulle zampe posteriori, guardavano Laura dietro la finestra e lei guardava loro. Non aveva mai visto lupi così grandi. Il più grande era più alto di lei, era persino più alto di Mary. E sedeva nel mezzo, proprio di fronte a lei. Tutto in lui era enorme, le orecchie aguzze, il muso appuntito con la lingua a penzoloni, le spalle possenti, le zampe una vicina all'altra e la coda arrotolata sopra le cosce accovacciate. Il pelo era ispido e grigio e gli occhi verdi luccicavano. Laura infilò le dita dei piedi in una crepa del muro, si aggrappò al quadro della finestra e continuò a guardare il lupo. Ma non sporse la testa fuori dalla finestra, dove tutti quei lupi si leccavano i baffi e ciondolavano sulle zampe a pochi passi da lei. Papà stava immobile, dietro di lei, e con il braccio le cingeva la vita. «È enorme!» sussurrò Laura. «Sì, e guarda come brilla il suo pelo!» le disse papà all'orecchio. La luce della luna faceva brillare il pelo ispido tutto intorno alla sagoma del grosso lupo. «Hanno circondato la casa», sussurrò papà. Insieme si avvicinarono all'altra finestra. Lui appoggiò il fucile al muro e la sollevò nuovamente. Lì si trovava, come previsto, l'altra metà dei lupi. I loro occhi scintillavano all'ombra della casa. Laura poteva sentirli respirare. Quando videro papà e Laura alle finestre, quelli che stavano al centro indietreggiarono un poco. Pet e Patti gemevano e correvano dentro la stalla, i loro zoccoli battevano contro il suolo e contro le pareti. Dopo un po', papà tornò all'altra finestra e Laura lo seguì, appena in tempo per vedere il grosso lupo sollevare il muso puntandolo verso il cielo. La sua bocca si aprì e un lungo ululato si sollevò verso la luna. Au! Tutto intorno alla casa, il cerchio di lupi puntò il muso verso il cielo e gli rispose. I loro ululati fecero tremare la casa e scivolarono via alla luce della luna, vibrando nel silenzio della prateria. Ora torna a letto, scricciolo, disse papà. Vai a dormire, ce ne occupiamo già che io. Così Laura tornò a letto, ma per un bel po' di tempo non riuscì a dormire. Mentre era sdraiata, sentiva i lupi respirare dall'altra parte del muro di legno, sentiva i loro artigli raschiare il terreno e il loro fiato tra le crepe. Sentì il capobranco ululare nuovamente e tutti gli altri rispondergli. Ma papà camminava in silenzio da una finestra all'altra e Jack non smetteva di fare avanti e indietro di fronte alla coperta appesa all'ingresso. Che i lupi ululassero pure, non sarebbero potuti entrare finché papà e Jack erano lì. E così Laura si addormentò. Due porte robuste. Laura sentì un dolce calore sul viso e aprì gli occhi nella luce del mattino. Mary parlava con mamma vicino al fuoco. Laura corse fuori con indosso solo la camicia da notte. Non si vedevano più lupi, solo le loro grosse impronte tutte intorno alla casa e alla stalla. Papà arrivò fischiettando dal sentiero che scendeva al ruscello, appese il fucile e portò Pet e Patti a bere come al solito. Aveva seguito le orme dei lupi per accertarsi che si fossero allontanati, magari seguendo un branco di cervi. I cavalli erano intimoriti dalle orme dei lupi e drizzavano nervosamente le orecchie. Pet teneva il puledro vicino a sé, ma andarono volentieri con papà. Lui sapeva che non c'era niente da temere. La colazione era pronta. Quando papà tornò dal ruscello, si sedettero tutti intorno al fuoco e mangiarono polenta fritta e pasticcio di tacchino. Papà disse che avrebbe costruito una porta quel giorno stesso, voleva che ci fosse molto più che una coperta tra loro e i lupi la prossima volta. Non ho più chiodi, ma non posso aspettare di tornare a Independence, disse. Non è indispensabile usare dei chiodi per costruire una casa o per fare una porta. Dopo colazione, attaccò Pet e Patti al carro, prese l'ascia e andò a prendere il legno per la porta. Laura aiutò a lavare i piatti e a rifare i letti mentre Mary si occupava della piccola. Laura aiutò papà a fare la porta. Mary guardava mentre Laura gli passava gli attrezzi. Con la sega Tagliò i tronchi della lunghezza giusta per una porta, poi tagliò dei pezzi più corti per le assi trasversali. Con l'ascia tagliò i tronchi e ne fece delle tavole che levigò per bene. Sistemò le assi a terra una accanto all'altra e appoggiò quelle più corte di traverso, poi con la trivella fece dei fori che attraversavano sia le assi orizzontali sia quelle verticali. In ciascun foro infilò una spinetta di legno che vi si incastrava perfettamente. E quella era la porta. Una bella porta di legno di quercia, solida e forte. Per i cardini tagliò tre lunghe cinghie, una andava nella parte alta della porta e una in basso e una al centro. Le legò la porta in questo modo, posò un pezzetto di legno sulla porta e praticò un foro che attraversava sia l'uno sia l'altra. Poi fece passare una parte della cinghia intorno al pezzetto di legno e con il coltello fece dei buchini nella cinghia. Appoggiò di nuovo il pezzetto di legno sulla porta con la cinghia piegata intorno ad esso e tutti i buchi uno sull'altro. Poi Laura gli passò una spinetta di legno e il martello e lui infilò la spinetta nei buchi. La spinetta attraversava la cinghia e il pezzetto di legno, poi di nuovo la cinghia per infilarsi nella porta. Così reggeva la cinghia in modo che non potesse allentarsi. L'avevo detto io che i chiodi non erano indispensabili, disse papà. Quando ebbe fissato i tre cardini, mise la porta nell'apertura dell'ingresso. Combaciava! Poi fissò delle strisce di legno sulle vecchie tavole dello stipite per evitare che si aprisse verso l'esterno. Mise di nuovo la porta al suo posto e Laura la teneva mentre papà fissava i cardini sullo stipite. Ma prima di questo aveva fatto il chiavistello sulla porta perché ovviamente bisognava poterla chiudere. Ecco come aveva costruito il chiavistello. Prima aveva intagliato un pezzo di legno corto e spesso. Da un lato di questo pezzo aveva intagliato un incavo largo e profondo che lo divideva a metà. Aveva fissato questo legnetto all'interno della porta, sopra, sotto e vicino al bordo. Aveva messo il lato intagliato contro la porta in modo che rimanesse una fessura. Poi aveva intagliato e scolpito un'asticella più lunga e sottile. Questa bacchetta era abbastanza sottile da passare attraverso la fessura. Papà aveva sistemato un'estremità nella fissura stessa, fissando l'altra alla porta, ma non l'aveva attaccata bene. La spinetta era fissata saldamente nella porta, ma il buco nell'asticella era più largo della spinetta. L'unica cosa che manteneva l'asticella sulla porta era la fessura. Questa asticella era il chiavistello. Girava agevolmente intorno alla spinetta e l'altra estremità poteva essere abbassata e sollevata dentro la fessura. Questa estremità era abbastanza lunga da attraversare la fessura del chiavistello, quella tra la porta e il muro, e posarsi contro il muro stesso se la porta era chiusa. Quando papà e Laura ebbero fissato la porta all'ingresso, papà contrassegnò il punto nel muro dove terminava l'asticella. Qui fissò nel muro un solido pezzo di legno tagliato in alto in modo che il chiavistello potesse infilarsi tra il legno e il muro. Quindi Laura spinse la porta, chiudendola. Mentre spingeva, alzò l'estremità dell'asticella in modo che andasse a infilarsi nella fessura. Poi la lasciò cadere al suo interno, dietro il solido pezzo di legno. Questo teneva l'asticella contro il muro e la striscia che andava su e giù teneva il chiavistello nella fessura contro la porta. Nessuno sarebbe potuto entrare a meno che non fosse riuscito a rompere il chiavistello. Ma doveva esserci un modo per sollevare il chiavistello dall'esterno, così papà fece una cordicella per poter aprire il chiavistello. La ricavò da una lunga striscia di pelle. Ne legò un'estremità al chiavistello tra la spinetta e la fessura. Sopra il chiavistello praticò un piccolo foro che attraversava la porta e vi infilò l'altra estremità della cordicella. Laura stava fuori e quando l'estremità della cordicella uscì dal buco la prese e tirò. Poteva tirare abbastanza forte da sollevare il chiavistello ed entrare. La porta era finita, era robusta, resistente, di solido legno di quercia con spesse assi trasversali. Il tutto tenuto insieme da saldi pioli di legno. La cordicella usciva fuori, se volevi entrare bastava tirare. Ma se eri all'interno e volevi tenere la porta chiusa, bastava ritirare la cordicella e nessuno sarebbe potuto entrare. Non c'erano maniglie su quella porta. Né serratura né chiavi, ma era un'ottima porta. Oh, questa è stata proprio una giornata produttiva, disse papà. e ho avuto un'ottima piccola aiutante. Abbracciò Laura, poi raccolse i suoi attrezzi, li mise a posto fischiettando e andò a prendere Pet e Patty per portarli a bere. Il sole stava tramontando, il vento era freddo e la cena che cuoceva sul fuoco aveva il miglior profumo che Laura avesse mai sentito. C'era del lardo per cena. Era l'ultimo pezzo rimasto, quindi il giorno seguente papà andò a caccia, ma il giorno dopo ancora costruì la porta della stalla. Era esattamente come quella della casa, solo che non c'era il chiavistello. Pet e Patty non avrebbero potuto servirsene e non avrebbero ritirato la cordicella per la notte. Quindi invece del chiavistello papà fece un buco nella porta e ci passò dentro una catena. La sera avrebbe infilato una delle estremità della catena nella fessura tra due tronchi nel muro della stalla e unito le due estremità fissandole con un lucchetto. Così nessuno sarebbe potuto entrare nella stalla. Ora siamo tutti al sicuro, disse papà. Una volta arrivati dei vicini nella regione, sarebbe stato meglio chiudere a chiave i cavalli di notte. Se dove ci sono i cervi arrivano i lupi, infatti, dove ci sono i cavalli arrivano i ladri di cavalli. Quella sera a cena, papà disse a mamma Caroline: non appena avremo finito la casa di Edwards, ti costruirò un camino, così potrai cucinare in casa al riparo dal vento e dalla pioggia. Non ho mai visto un posto così soleggiato, ma immagino che pioverà ogni tanto. Eh sì, Charles, disse mamma, il bel tempo non può durare per sempre.